Irini e la pace nel Mediterraneo, Hong Kong, la veglia e gli arresti, Trump e lo strappo coi militari. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Libya has to be a priority to the European Union. Irini is part of the solution. United States of America, racism, they do it better than anybody else. But racism is all over the world. It's simply a matter of keeping living up to the responsibilities that on both sides we've undertaken. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, 16.08 in questo esatto istante, una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano, anche quest'oggi a ruotare il mappamondo e raccontarvi fatti e avvenimenti che arrivano solo apparentemente da lontano. Con me ci sono Antonio Tali, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni, Elisabetta Fusconi in assistenza e la grammatica musicale è affidata a Roberta Frisani. 349-238-6666, sms e whatsapp, domande e commenti per i tre temi che sono al centro di questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Innanzitutto vi racconteremo meglio e nei dettagli la missione aeronavale Irini, quella che è attiva sostanzialmente da un mese. Cercheremo di tratteggiare un bilancio e lo faremo con chi è a capo proprio di questa missione, obiettivo soprattutto far rispettare l'embargo sulla Libia. Poi andremo negli Stati Uniti, perché il presidente statunitense Donald Trump ha ultimato quello che era uno strappo già abbastanza visibile ieri. Con cosa? Beh, soprattutto con gli alti vertici militari, in particolare il capo del Pentagono Esper. Vi darò conto anche di questo. Infine Hong Kong, perché la veglia, le commemorazioni per piazza Tiananmen, la piazza di Hong Kong appunto, ha sfidato la polizia hongkongese. Fino a qualche minuto fa si era proceduti con calma, con tranquillità, sono iniziati invece i primi arresti. Ci collegheremo proprio con Hong Kong per darvi le ultimissime, ma naturalmente la prima cosa da fare è sfogliare i nostri dossier. Il primo ci porta in Libia, perché il governo di accordo nazionale Tripoli al-Sarraj ha dichiarato poche ore fa di aver riacquisito il pieno controllo dell'aeroporto di Tripoli. L'annuncio arriva dopo più di un anno di assedio da parte delle forze guidate dal generale Khalifa Haftar. Nel frattempo, secondo fonti militari interne, proprio l'esercito di Haftar completerà entro giovedì il proprio ritiro dai distretti di Tripoli di Ain Zara, Abu Salim e Kasbrin Gashir per ripiegare verso una città vicina alla roccaforte di Taruna. Sono settimane che vi stiamo raccontando proprio questo ripiegamento. Per il momento viene visto come un ripiegamento tattico. Bisognerà vedere nelle prossime settimane quanta benzina i supporter esterni ai due contendenti, Sarraj e Haftar, potranno mettere nei rispettivi motori. Da questo dipenderà evidentemente l'esito della battaglia per Tripoli e non solo. È utile ricordare comunque che l'esercito di Haftar continua a controllare la maggior parte del territorio libico, nonché la maggior parte delle strutture petrolifere. Arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666, tra pochissimo ve ne darò conto, non prima di portarvi in India e in Australia, e suonerà strano, ma perché? Perché i due grossi paesi, i due colossi asiatici hanno siglato un accordo che permette alle rispettive forze armate l'accesso e l'utilizzo delle reciproche basi militari. È un patto che molto probabilmente porterà ulteriori sviluppi e ulteriori collaborazioni nella macro regione dell'Indo-Pacifico. L'accordo consentirà a navi e aeromobili militari indiane e australiane rispettivamente di rifornirsi di carburante e accedere alle varie strutture di manutenzione delle rispettive basi. L'India ha già un accordo, è utile ricordarlo, molto simile con gli Stati Uniti. Probabilmente l'accordo con l'Australia è volto a bilanciare lo strapotere, per ora economico, ma che sul lungo termine potrebbe essere anche militare e soprattutto navale, della Cina, che come spesso vi abbiamo raccontato sta investendo molto anche sul suo assetto navale e sulla sua proiezione in quei mari. Contenziosi con l'Australia ormai ci sono da parecchio tempo e quindi questa mossa potrebbe essere vista in funzione anticinese. Infine in Siria le notizie arrivano dall'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria, lo sapete è di base a Londra, sulla cui attendibilità ogni tanto vi sono state, come dire, dei punti di domanda. Comunque, ne da notizia di che cosa? Di 3 raid attribuiti all'aviazione russa registrati nella tarda giornata ieri nella Siria nord-occidentale. Sarebbe la prima volta che Mosca fa dei bombardamenti dopo la tregua sulla contesa regione di Idlib. I raid compiuti in particolare nella stessa regione di Idlib, di Hama e Latakia, dove si registra poi la presenza anche di alcuni gruppi qaedisti. Sempre la stessa ONG di base a Londra riferisce che questa mattina un ordigno improvvisato è esploso al passaggio di un convoglio di mezzi militari turchi e russi, lo sapete che stanno facendo i pattugliamenti congiunti, sull'autostrada M4, che è quella che attraversa trasversalmente da ovest a est la regione appunto di Idlib. Non vi sono notizie di vittime, ma ancora una volta quella roccaforte rimane un vulnus per il regime di Assad e rimane un problema spinoso anche evidentemente per Ankara e per Mosca. Questo il nostro breve dossier termometro internazionale. Adesso però andiamo in quel mare di fronte alla Libia. Andiamo sul mare Mediterraneo centrale, perché dopo avervi dato conto delle ultime dal campo, dal terreno, da quelle lande sabbiose libiche dove Haftar sembra per il momento tatticamente ritirarsi dal fronte di Tripoli, nel frattempo lo sapete che una grande partita si gioca non soltanto sul mare Mediterraneo ma anche sui cieli del Mediterraneo. Tante volte qui da questi microfoni abbiamo spiegato come il propellente dei due contendenti arrivi da potenze straniere, con una Turchia che appoggia ormai da parecchie settimane il fragile governo di Tripoli di al-Sarraj e con Emirati Arabi, Arabia Saudita, Egitto, Russia in maniera informale, Francia in maniera estremamente sotterranea appoggiano invece il generale Khalifa Haftar. Ed è per questo che l'Unione Europea ha dispiegato una missione, Irini appunto, l'operazione si chiama EUNAVFOR MED. La notizia di oggi è, per far rispettare soprattutto l'embargo, quella è la missione principale, la notizia di oggi è che una fregata greca si è unita all'assetto già presente. Buongiorno e benvenuta nel suo luogo lontano all'ammiraglio Fabio Agostini, che è il comandante dell'operazione Irini. Ammiraglio, buongiorno. Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori. Ammiraglio, intanto grazie per essere con noi. Ci aiuta a capire meglio in quale porzione del Mar Mediterraneo voi svolgete questa importante operazione? L'operazione europea Irini si svolge chiaramente in alto mare, nel Mediterraneo centrale, al largo delle coste libiche. Non è molto diversa dall'operazione, l'area di operazione non è molto diversa da quella che ha interessato l'Italia nel recente passato. Sì. Ammiraglio, che cosa aggiunge all'operazione l'arrivo della fregata greca? Qua perdonerà la mia scarsa competenza militare, più di dire fregata non riesco a dire, so che c'è a bordo un Aegean Hawk, mi corregga se sbaglio. Questo assetto, questa unità navale con l'elicottero a bordo, quali possibilità aggiunge al vostro dispiegamento? È stato correttissimo nella sua indicazione. La fregata greca si aggiunge ai 3 assetti aerei già assegnati all'operazione, un aereo del Lussemburgo, uno polacco e uno tedesco, e alla fregata francese che ha da pochissimo terminato il suo mandato, a testimoniare l'interesse di tutta l'Europa su questa operazione che, sottolineo, è prettamente europea. Sì. In questa prima fase dell'operazione la nave greca, come la nave che l'ha preceduta, sarà importante per la compilazione della situazione di superficie dell'area operazione, quindi per avere un'idea di quello che succede in quelle acque. Successivamente, essendo dotata di elicottero e di un team per l'ispezione a bordo delle navi mercantili, la nave greca sarà utilizzata come gli altri assetti per ispezionare i mercantili sospettati di effettuare dei traffici illeciti di armi da e verso la Libia, questo in accordo alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. A questa nave sì. Greca, gli aerei già disponibili, a breve si uniranno altri assetti resi disponibili dagli Stati membri. Sì, la voce che state ascoltando, lo ricordo, è quella dell'ammiraglio Fabio Agostini, che comanda l'operazione Irini, che è un'operazione operativa da un mese circa. Ci può tracciare un bilancio delle attività che sono state svolte in questo mese? L'operazione, come ha giustamente sottolineato lei, è iniziata soltanto da un mese, da quando effettivamente abbiamo avuto la prima unità, che era un'unità francese, e il primo aereo, che era l'aereo lussemburghese. fondamentalmente con l'arrivo dei vari assetti avremo sempre più capacità di sviluppare e di ottemperare i nostri compiti in mare così come assegnati dall'Unione Europea. Sì. Comunque, come già è avvenuto, come già sottolineato dall'alto rappresentante dell'Unione Europea, l'operazione ha ottenuto già i suoi primi risultati, soprattutto in termini di raccolta di informazioni sul traffico di armi, che sono state prontamente inviate ai paesi membri ovviamente, ma anche ai rilevanti organismi dell'Unione Europea, dell'ONU, e anche ha avuto un forte effetto deterrente soprattutto sul traffico illecito di petrolio che affligge quel paese. Dalle parole dell'ammiraglio Fabio Agostini, lo ricordo, comanda l'operazione Irini, stiamo cercando di evincere un po' meglio quelli che sono i dettagli di un'operazione che è stata partorita dopo un lungo e travagliato parto, appunto, in sede europea. Ammiraglio, nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, si è tanto discusso della possibile presenza di aerei russi che sono arrivati in Libia. Voi, dal vostro privilegiato osservatorio, evidentemente, avete mai tracciato velivoli russi provenienti dalla Siria e diretti in Libia? Allora, come detto, l'obiettivo principale di questa operazione è l'attuazione dell'embargo sulle armi disposto dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Questo embargo avviene sia via mare, via aerea o via terra. L'operazione, con gli assetti che ha a disposizione di volta in volta, monitora e traccia anche il traffico aereo e segnala eventuali violazioni dell'embargo perpetrate per via, appunto, di mezzi aerei. Sì. Il nostro compito è di comprendere, monitorare e, laddove possibile, bloccare il traffico illegale di armi. Voglio sottolineare a tale proposito che il traffico di armi non è esclusivo di un determinato paese, come lei ha sottolineato nella sua premessa. Ci sono molti attori internazionali che partecipano a questo traffico. Il nostro compito è rivolto al traffico di armi in genere, da qualunque parte esso provenga, sì, e ovunque esso sia destinato in Libia, quindi non contro un determinato paese, sì, né tantomeno monitoriamo solo un paese piuttosto che un, sì, altro. E in sostanza non mi sta dicendo però se avete avuto notizie di questi aerei russi, perché c'è molto mistero su questo possibile arrivo, tuttora c'è un grande punto di domanda. Beh sì, puoi immaginare che informazioni di questo tipo sono anche coperte da un certo riservo di tipo militare. Chiarissimo. Alcuni ascoltatori mi stanno sollecitando, ammiraglio, sulla vostra funzione, il vostro ruolo rispetto al traffico di esseri umani. Un ascoltatore con un linguaggio non particolarmente riverente dice, lo dice l'ammiraglio, non è molto diversa dalla precedente questa missione, raccattare clandestini. Ci vuole aiutare a capire, ammiraglio, esattamente che cosa fate? Già lo ha spiegato, il vostro compito principale è smantellare, attingere informazioni sul traffico di armi, però sul traffico di esseri umani come vi comportate? Sì, infatti è importante sottolinearlo che l'operazione ha un compito completamente diverso dalla precedente, anche se poi quello del supporto al contrasto dei traffici di esseri umani è uno dei compiti aggiuntivi di questa operazione. Questo compito verrà svolto attraverso il monitoraggio e la raccolta di informazioni da parte degli assetti aerei che abbiamo a disposizione in alto mare. È importante anche qui sottolineare che noi soprattutto contiamo sulla formazione della Guardia Costiera e della Marina Libica, che è un ulteriore compito accessorio dell'operazione, affinché, sì, queste siano in grado di assolvere autonomamente ai compiti di gestione e di sicurezza e di contrasto, gestione della sicurezza e di contrasto dei traffici illeciti, anche di esseri umani, nelle acque di loro competenza. Sì. Peraltro vorrei rassicurare che gli operatori libici non saranno formati solo dal punto di vista delle capacità operative, ma anche dal punto di vista del rispetto dei diritti umani, dei minori e delle donne. E tutto questo nel passato si è dimostrato utile. Sì. Ammiraglio Fabio Agostini, lo ricordo, comanda l'operazione Irini, avrei l'ultima domanda. Come agite nel caso venga rilevata un'imbarcazione con a bordo sospette armi oppure petrolio illegale? Allora, noi agiamo fondamentalmente in linea con quello che sono le direttive delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che prevedono che gli assetti navali dell'operazione possano effettuare ispezioni a bordo dei mercantili sospettati di trafficare armi da e verso la Libia. in caso di un mercantile sospettato di trafficare appunto in maniera illecita petrolio o suoi derivati, in accordo con il mandato, in questo caso noi faremo delle segnalazioni alle competenti autorità delle Nazioni Unite, esercitando comunque di fatto, come già peraltro è avvenuto, un'importante azione deterrente in questo caso. Sì, quindi diciamo sostanzialmente deterrenza, perché immagino che poi beccare qualcuno in flagranza di reato comporti anche delle regole di ingaggio, no, ammiraglio? Affermativo, non solo deterrenza, diciamo deterrenza più che altro per quanto riguarda il traffico di illecito di petrolio, invece un'azione che secondo le regole dettate dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, anche quindi con la possibilità di abbordare ed eventualmente dirottare una nave mercantile che dovesse essere trovata diciamo in possesso di armi non lecite, quindi c'è questa doppia possibile funzione soprattutto per quanto riguarda il traffico di armi. L'ammiraglio Fabio Agostini comanda l'operazione Irini, a lei e a tutta la squadra evidentemente un in bocca al lupo, un buon lavoro, grazie mille per essere stato con grazie noi. Grazie a lei, grazie a tutti i radiospettatori. 349-238-6666 per i vostri messaggi, i vostri commenti, la maggior parte erano una serie di domande rivolte all'ammiraglio che ho cercato di tradurre istantaneamente per appunto avere un po' di risposte in più. Qualcuno chiede chi produce le armi destinate alla Libia, se si volesse veramente bloccare questo traffico basterebbero uno o due bombe per ciascuna fabbrica sganciate da una F-35 in modalità stealth. Qua l'ascoltatore evidentemente o sfoggia motivatamente grandi competenze militari o sono io che forse ho mal interpretato la domanda. Al di là della produzione delle armi destinate in Libia, è importante sapere quali sono gli attori esterni che le mandano, al di là di andare a bombardare la produzione. Davamo conto di questi aerei velivoli rossi sui quali l'ammiraglio Fabio Castini non si è potuto pronunciare, ma evidentemente, e come immaginate, vi sono dossier che rimangono di pertinenza militare, quindi segretati. Però ricapitolo per essere più chiaro, nella maniera più efficace possibile. Allora, da un lato abbiamo la Turchia che equipaggia o ha equipaggiato pesantemente il governo di al-Sarraj, dall'altra parte abbiamo Egitto che confina con il pezzo di Libia di Haftar, abbiamo gli Emirati Arabi Uniti che possono facilmente organizzare anche dei ponti aerei, abbiamo la Russia, abbiamo la Francia, abbiamo l'Arabia Saudita che secondo il Washington Post almeno un anno e mezzo fa ha rifornito di milioni di dollari il generale Haftar per questa lunga cavalcata, per adesso non particolarmente fortunata, verso Tripoli. Torneremo su questo tema, torneremo a occuparci anche della missione europea per capire meglio la sua efficacia. Questa è la nostra prima pagina di questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Adesso voltiamo appunto pagina, andiamo negli Stati Uniti. Io volevo voltare pagina, ma continuano ad arrivare i messaggi sul capitolo libico. Prometto che ci torneremo, come abbiamo fatto lungamente nelle scorse puntate di Nessun Luogo Lontano. Qualcuno scrive su Facebook: formare operatori libici, davvero credete a quello che dite? E così in maniera sarcastica rivolto all'ammiraglio. Allora, io credo che il punto sia più che altro politico, più che militare. Evidentemente i militari lavorano su un mandato politico, su delle regole molto strette, esplicitate e raccomandate dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, quindi hanno dei margini di manovra estremamente minimi, evidentemente, come potete immaginare. Qua c'è una volontà politica che, se volete, va discussa, cioè quanto è opportuno, quanto è utile, quanto è etico, e qua mi azzardo, faccio un passo in più, andare a addestrare una guardia costiera libica che negli ultimi anni si è macchiata di parecchie violazioni dei diritti umani, se non di reati a tutti gli effetti, che è una guardia costiera che in alcuni casi è stata accusata di essere parte di organizzazioni di milizie armate, eccetera, e quindi e qui è una volontà politica, bisogna decidere con chi parlare e con chi gestire quella parte di Mediterraneo. Fatemi però tornare sugli Stati Uniti. Perché? Perché per la nona notte consecutiva migliaia di persone si sono riunite in larghe manifestazioni, la maggior parte di esse pacifiche, nonostante il forte schieramento di polizia e guardia nazionale in almeno 140 degli Stati Uniti. Secondo l'AP, Associated Press, più di 10.000 persone sono state arrestate durante queste proteste, la maggior parte degli arresti dovuti a reati di basso livello, violazioni del coprifuoco e per non aver rispettato l'ordine di polizia di disperdersi. altre centinaia di persone sono state arrestate con l'accusa di furto con scasso e saccheggio. La città con più arresti, Los Angeles, 2500 persone, seguita da New York, 2000 persone. Nella giornata di ieri vi avevamo dato conto dei vari malumori che serpeggiavano soprattutto tra vertici, ex vertici militari delle amministrazioni americane. Il tutto perché Donald Trump aveva detto attenzione che posso mandare l'esercito, invocando l'Insurrection Act, che è una norma del 1807 il cui ultimo utilizzo risale al 1992, le sanguinose rivolte di Los Angeles in cui la città fu messa a ferro e a fuoco. Però nella giornata di ieri due pesi massimi hanno detto il loro no. Il primo, Mark Esper, segretario alla difesa, ex generale, che ieri sera in una conferenza stampa si è detto assolutamente contrario all'utilizzo dell'Insurrection Act. Sentiamo. Ho sempre pensato e continuo a pensare che la Guardia Nazionale sia più adatta a supportare le autorità civili in queste situazioni a sostegno delle forze di polizia locale. Lo dico non solo in qualità di segretario alla difesa, ma anche da ex soldato e da ex membro della Guardia Nazionale. L'opzione di utilizzare i militari in servizio attivo per garantire il rispetto della legge dovrebbe essere usata solo come ultima risorsa e solo nelle situazioni più gravi. Al momento non siamo in questa condizione. Non sono favorevole all'invocazione dell'Insurrection Act. I do not support invoking the Insurrection Act. Molto pacato, molto sobrio, se volete, Mark Esper, capo della difesa e a capo del Pentagono, appunto, sulla possibilità invocata da Donald Trump, però a muso duro, assolutamente. Tanto che indiscrezioni da vari prestigiosi quotidiani americani sottolineano che a Donald Trump non sarebbe piaciuta questa dichiarazione da parte di Esper. Tanto che, attenzione, la portavoce della Casa Bianca ha detto: per ora il segretario Esper è ancora segretario Esper. Se il presidente dovesse perdere la fiducia in lui, lo sapremo tutti in futuro. E capite meglio di me che messaggi di questo tipo sono evidentemente direttamente rivolti al capo del Pentagono, per far capire quanto appunto a Donald Trump non sia piaciuta questa presa di posizione. Presa di posizione che, attenzione, si aggiunge anche quella di James Mattis. Se lo ricordate, si era sottosegretario alla difesa, non era durato tantissimo, si era dimesso egli stesso. Come ha scritto Daniele Raneri sul Foglio, che è una prima aperta contraddizione tra il campo dei militari e un presidente che spesso ricorre ai militari, ma in maniera inusuale, perché per esempio ha fatto costruire ai militari stessi alcuni segmenti del muro anti-immigrazione al confine col Messico. Nei giorni scorsi, è utile ricordarlo per darvi tutti i tasselli, Esper è stato criticato perché aveva descritto il paese come un campo di battaglia da liberare dai manifestanti. E quindi, come dire, la situazione è in continua evoluzione e continua a prendere una piega politica. Ieri vi raccontavamo di come i militari, ex militari, temessero soprattutto la politicizzazione dell'esercito. Parlavamo di James Mattis, ex generale, ex segretario alla difesa. Dopo che si era dimesso con una pesantissima lettera in cui diceva: caro signor presidente, io e lei la vediamo in maniera totalmente diversa, i miei servigi non credo che le siano più utili, e questo avveniva più di un anno fa, James Mattis ha scritto un comunicato stampa che è stato pubblicato sul The Atlantic, dove si è detto arrabbiato e sconvolto per gli eventi successi in questa lunga settimana, ormai 9 giorni. Mattis ha scritto: Donald Trump è il primo presidente della mia vita, Mattis è classe 1950, che non cerca di unire gli americani, non finge nemmeno di provarci, cerca di dividerci. Peraltro finisce l'editoriale, diciamo, il comunicato stampa di Mattis in maniera anche piuttosto dura: stiamo assistendo alle conseguenze di 3 anni senza una leadership matura. Chi non poteva cogliere la palla al balzo per questa diatriba? Beh, l'ex presidente Barack Obama, che ha tenuto il suo primo discorso dopo lo scoppio delle rivolte, ha detto: ricordatevi che questo paese è stato costruito su una protesta, si chiama rivoluzione americana. Allora, 349-238-6666, tra pochissimo vi darò conto dei tanti messaggi che stanno arrivando. Abbiamo tanto raccontato questa deriva, in parte violenta, in parte fomentata da criminali comuni, in parte, secondo alcune fonti di stampa sempre americane, da gruppi di suprematisti bianchi. Alcuni, pensate, si erano collegati a un falso account Antifa, quelli antifascist che Donald Trump vorrebbe bollare come organizzazione terroristica interna. La Reuters riporta che alcuni gruppi sono stati associati ai cosiddetti Proud Boys, che Facebook stessa aveva in precedenza bollato e classificato come gruppo pericoloso. Vi faccio risentire la voce di David Newhart, giornalista, saggista, che ha scritto un libro molto interessante, edito in Italia da Minimum Fax, che racconta l'Alt America, cioè l'Alternative Right, l'Alt-Right, che sono una galassia di gruppi di estrema destra. Molto spesso si rifanno ai gruppi che assolutamente non vogliono che venga toccato il quinto emendamento, non vogliono che si tocchino le armerie, assolutamente nei... In molti gruppi social in questi giorni è rimbalzato l'invito da parte di questi gruppi di presentarsi alle manifestazioni armate, magari anche con fucili d'assalto. Pensate che polveriera potrebbe scaturirne. Torniamo alla voce di Devin Newhart. Gli abbiamo chiesto: negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno assistito al fiorire di varie teorie cospirazioniste, QAnon, gruppi estremisti online come l'Incel. Questi gruppi stanno approfittando della situazione attuale per mettere in atto la propria propaganda e la propria agenda. Sentite cosa ha detto Newhart. Well, we have seen a lot of the response, first of all, to the pandemic. Di fronte alle misure per il lockdown, nelle ultime settimane abbiamo assistito a diverse resistenze politiche basate su teorie complottiste. Ad esempio, l'idea che il coronavirus sia causato da torri 5G, oppure che Bill Gates sia coinvolto, oppure che il virus sia stato creato in laboratorio a Wuhan. Queste teorie, come sappiamo, sono false, ma hanno acquisito un certo seguito negli ambienti complottisti. E quindi queste persone, che prima si erano organizzate durante le cosiddette proteste contro le misure restrittive per la pandemia, ora compaiono agli scontri per la morte di George Floyd. Tuttavia, non sono lì per protestare per la morte di Floyd o contro lo stato di polizia, come cercano di far pensare, ma per incrementare le divisioni e il caos e istigare violenza. Molta di questa gente è profondamente complottista. Si definiscono accelerazionisti perché vogliono accelerare il processo di disgregazione degli Stati Uniti. E se vedono persone di colore protestare, come hanno stabilito nei loro forum online, li aiutano per generare ancor più violenza, sperando di avvicinarsi più velocemente a questa seconda guerra civile, la guerra razziale in cui sperano da tempo. Questi gruppi vedono gli scontri di questi giorni come l'inizio di una guerra razziale, ed è questo l'obiettivo che sperano di ottenere. Così David Newhart. Adesso piccola pausa, la borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Prosegue la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano, Stati Uniti, con la frattura ormai consumata tra una parte dei vertici militari, in particolare il capo del Pentagono Mark Esper, ma poi anche a seguire James Mattis, che era sottosegretario alla difesa, e il presidente statunitense Donald Trump. Alcuni ascoltatori, fra cui qualcuno che dice che, se ripetiamo ancora una volta che siamo imparziali, cambia stazione radiofonica perché siamo assolutamente faziosi. Qualcuno mi chiede: Valeriano, cosa sta tentando di fare? Di dare la colpa delle feroci violenze nere e degli antifa a questi fantomatici complottisti? E poi vuole che gli ascoltatori non lo ritengano fazioso. Cerchiamo di essere seri, ma non sono io che lo sto facendo, è David Newhart, gentile ascoltatore, il cui curriculum credo che parli a sufficienza per le sue ricerche e la conoscenza del territorio statunitense. Giornalista, saggista, ha lavorato per MSNBC, lavora per l'Osservatorio Southern Poverty Law Center, è autore, fra le altre cose, di Alt America, l'ascesa della destra radicale nell'era di Donald Trump. È un osservatore privilegiato che studia questi fenomeni. Non ho detto che la colpa delle feroci violenze, che io non bollerei nere e degli antifa, di questi giorni sono riconducibili a questi fantomatici complottisti. Il discorso di Newhart è molto più complesso. Vi sono anime accelerazioniste, le definisce lui. Queste componenti americane, per noi incomprensibili, ma immagino anche per lei, vogliono una guerra civile, vogliono accelerare le crisi, le nevralgie, quindi sfruttano queste manifestazioni per renderle violente, perché secondo loro, se si va verso il caos, si possono rifondare gli Stati Uniti. Questo è un po' il concetto che è stato sdoganato. Esiste quasi una letteratura consolidata ormai sulla teoria degli accelerazionisti. 349-238-6666 per i vostri messaggi e i vostri commenti. Torniamo a Newhart. Quale può essere l'impatto di questa situazione? Sentite. L'alt-right sta sicuramente sperando di trasformare l'epidemia di Covid-19 e la situazione di instabilità sociale che ne deriva in quella guerra civile alla quale puntano da molto, molto tempo. Vogliono vedere le istituzioni liberal-democratiche abbattute e poi distrutte. Ora, alcuni dei sostenitori di queste teorie somigliano a quella citazione tratta da uno dei film di Batman, quando Alfred, il maggiordomo, dice: alcune persone vogliono solo vedere il mondo bruciare. Mi sembra una descrizione molto appropriata. Quindi alcuni di loro cercheranno di fare leva sia sul Covid-19 e adesso sulle instabilità razziali alle quali stiamo assistendo. Potrebbe essere davvero il detonatore che stanno aspettando? Penso che loro adorerebbero che lo fosse, ma in realtà penso anche che l'America sia molto più resistente di così e che tutto questo non succederà. Queste persone hanno vissuto in un mondo immaginario per molto tempo e per molto tempo hanno cercato di trasformare il loro mondo immaginario in realtà. Penso che sia molto improbabile che ci riescano e allo stesso tempo temo che mentre loro ci provano, molte persone si faranno male. Questo è il commento, la parola, l'analisi di David Newhart a proposito della folta letteratura in campo giornalistico, evidentemente, che va a suffragare questa tesi. Anche Reuters recentemente dava proprio conto dell'infiltrazione di queste anime all'interno dei movimenti di protesta. Tra gli altri messaggi, qualcuno dice: beh, attenzione, Obama è stato un guerrafondaio a destra manca, quindi basta pestare duro su Donald Trump. Ma qua non stiamo pestando duro su Donald Trump, stiamo raccontando di quelle che sono 9 giorni di protesta e della reazione da parte del presidente statunitense, che da molti viene bollata come scomposta. Adesso in bilico la sua carriera, perlomeno, c'è Mark Esper. Max si andrà a aggiungere alla foltissima truppa degli esautorati o degli autodimissionari dei vertici dell'amministrazione statunitense. 349-238-6666. Io direi a questo punto andiamo a Hong Kong. Mentre viaggiamo chiaramente virtualmente dagli Stati Uniti a Hong Kong, però permettetemi di rinnovare il mio invito a consolidare, a sostanziare le vostre critiche che accetto in toto e a cui sarò felicissimo di rispondere. Ma se un ascoltatore mi scrive: con stasera avete raggiunto il fondo o l'apice della vostra faziosità anti-Trump, così Vito però mi deve spiegare cosa è stato detto che sarebbe fazioso, cosa c'è di falso in quello che ha raccontato David Newhart, la Reuters, il New York Times, perché se no entriamo in un strano mondo in cui la stampa è tutta fake news, come appunto sostiene Donald Trump. Però io faccio fatica proprio a intendere, a entrare in questo mondo e a orientarmi, così come si fa fatica anche a orientarsi per capire cosa sta accadendo a Hong Kong in queste ore. Vi annuncio tra pochissimo la voce di un manifestante. Sta facendo qualcosa che non si può fare, non si può fare nel mainland, in Cina, figuriamoci anche a Hong Kong. Lo chiameremo Pan e, come al solito, Antonio Talia si è sbizzarrito fra i vari canali Telegram, non senza difficoltà, accreditandosi e rassicurando che non siamo spie, siamo una stazione, un'emittente radiofonica italiana. E tra pochissimo vi farò sentire la voce di Nicola Longobardi, anzi quasi quasi, andiamo a vedere se sta bene. Nicola Longobardi, buongiorno da Hong Kong, in diretta. Pronto? Eccoci, Nicola, ci sei? Ciao, ci sono. Ecco, prima di andare a sentire la viabilità italiana, volevamo assicurarmi intanto che non ti avessero arrestato, e quindi se mi rassicuri... No, per ora no. Ieri mi hanno fermato, mi hanno chiesto i documenti, ma mi hanno subito rilasciato. Allora, quindi... stai lì, se vedi una divisa, gira l'angolo, per favore. Un attimo di pausa, la viabilità, poi torniamo subito da te. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, andiamo subito a Hong Kong con la voce di Nicola Longobardi, che adesso ti trovi a Mong Kok, zona tradizionalmente insidiosa per le proteste. Prima però eri al Victoria Park, altra zona centralissima. Dici un po' come sta andando questa veglia che sta sfidando le autorità di Hong Kong. Sì, allora, la veglia a Victoria Park è stata pacifica. A un certo momento tutti i manifestanti hanno deciso di entrare dentro Victoria Park, nonostante fosse chiuso da transenne, perché c'era il divieto di radunarsi per le regole di distanziamento sociale per il virus, ma in migliaia si sono radunati comunque all'interno del parco e la polizia non è intervenuta. Quindi è stata una manifestazione pacifica, anche emozionante, considerando che oggi è stata anche votata la legge sull'inno nazionale. Tra altre cose, una curiosità: quando ho ricevuto la notifica del passaggio della legge, dell'approvazione della legge all'Legco, ha piovuto per qualche minuto. Forse un segno del cielo, non lo so. Allora, la voce di Nicola Longobardi ci fa sorridere pure in queste ore particolarmente drammatiche. Provo a ricapitolare brevemente: piazza Tiananmen in Cina, ovviamente non si può commemorare quello che è accaduto, a Hong Kong lo si fa, c'era timore che per la prima volta dall'89 non si potesse fare, gli hongkongesi lo stanno facendo. La legge invece sull'inno nazionale cinese sostanzialmente vieta qualsiasi derisione o parodia, cosa che invece gli hongkongesi molto spesso e volentieri facevano, soprattutto in occasione magari delle partite di calcio in cui veniva suonato anche l'inno nazionale cinese, partite di calcio della squadra di Hong Kong invece. Nicola Longobardi, stai con noi, ti faccio sentire la voce di Pan, che Antonio Tali ha appena raggiunto grazie ai social. Pan ci fa capire come la strage di piazza Tiananmen abbia contribuito a formare la sua conoscenza ma anche la sua coscienza politica. Ascoltate la sua testimonianza. La mia famiglia ha sempre preso parte alla veglia per ricordare Tiananmen, ma non avevo davvero capito quanto questa vicenda fosse davvero cruciale per i cinesi e per la gente di Hong Kong finché non ho compiuto 15 anni. Voglio dire, penso di aver capito che fosse successo qualcosa di terribile intorno ai 6 anni, ma ovviamente non capivo cosa fosse e l'ho capito dopo, pian piano. Poi, a 15 anni, mentre studiavo all'estero, ho avuto una discussione con un altro studente, un amico cinese, e ho scoperto che dal suo punto di vista non era neanche possibile che un evento del genere fosse davvero successo. Per il mio amico cinese, la strage di piazza Tiananmen non era accaduta veramente. E se qualcosa era davvero accaduto, beh, si trattava per la maggior parte di propaganda occidentale. Da allora ho iniziato a considerare più seriamente le questioni politiche, in particolare il rapporto tra Hong Kong e la Cina. Io sono nato nel 1997, quindi letteralmente sono uno di quelli che qui chiamano i prescelti, giusto? Perché ho diritto al cosiddetto BNO, un passaporto speciale emesso dal Regno Unito per gli hongkongesi. Ma ho iniziato a riflettere sul fatto che quando avrò 50 anni, tutto cambierà. Hong Kong diventerà definitivamente parte della Cina e perderemo tutti i privilegi di cui abbiamo goduto e saremo ancora più controllati. Questa è la voce di Pan, raggiunto da Antonio Talia, ovviamente è uno pseudonimo e per ragioni di riservatezza e di sicurezza non daremo mai il nome completo e reale. Sono i racconti di pochi minuti fa durante la veglia per piazza Tiananmen a Hong Kong. Siamo però con Nicola Longobardi in diretta da Hong Kong, fotogiornalista, ricordavamo proprio ieri il suo libro assieme a Lisa Giucca, da una parte le foto di Nicola che abbiamo spesso lanciato sui nostri social, dall'altra il racconto di 30 giorni a Hong Kong. Un ascoltatore chiede cosa vuol dire se vedi una divisa gira l'angolo così. Francesco da Verona, era una mia un'ironia ma neanche tanto, perché nel caso di manifestazioni di piazza chi fa il nostro lavoro sa benissimo che a volte chi ha una macchina fotografica, chi ha una telecamera, nella concitazione o se a volte la polizia non rispetta i diritti e i doveri dei giornalisti potrebbe non andare benissimo sia per il giornalista che per l'attrezzatura. Nicola Longobardi, intanto le agenzie battono la notizia di cartucce urticanti contro la folla, però dal tuo osservatorio non hai visto cariche di questo tipo, vero? No, è successo qualche minuto fa che alcuni ragazzi, alcuni manifestanti hanno provato a bloccare la strada, e allora sono intervenuti degli agenti non in divisa, sotto copertura, e li hanno arrestati e portati via. Naturalmente quando la gente ha provato a intervenire hanno allontanato tutti quanti con spray urticante e queste proiettili che sono in realtà delle palline di peperoncino che ti fanno tossire. Nulla di letale, però molto fastidioso. Sì. Vorrei... Sì, Nicola, vai pure. No, vorrei riagganciarmi un attimo all'intervista che ho appena sentito. Sì. Vorrei ricordare, perché qua poi molte volte si pensa che Hong Kong voglia l'indipendenza per motivi anche di razzismo nei confronti dei cinesi, che loro chiamano mainland, quelli che vengono dalla Cina continentale. Però questa è l'unica porzione di territorio cinese dove si ricordano i morti della Cina continentale, e sono sempre migliaia di persone che scendono in piazza per commemorare la loro morte. Quindi questa narrazione degli hongkongesi, che sicuramente c'è una parte che prova disprezzo per i cinesi, ma è veramente minima, considerando che tutti gli anni per il 4 di giugno scendono migliaia di persone a celebrare i loro morti. Hai fatto bene a precisarlo, Nicola Longobardi, con quest'ultimo tassello importantissimo e fondamentale. Ti ringrazio, ti lascio alle tue foto, al tuo lavoro. Alla prossima, Nicola, buon lavoro. Grazie, alla prossima, ciao. 349-238-6666. La provocazione di concedere il passaporto e la cittadinanza britannica agli abitanti di Hong Kong è una pessima... Mi sono perso il messaggio, perché ne arrivava un altro contemporaneamente. Una pessima provocazione, perché semplificherebbe l'operazione di colonizzazione che è nei progetti cinesi. Che cosa ne pensate, Davide? Io direi di lasciare la parola sempre a Pan, il quale ha un passaporto cosiddetto BNO, cioè un passaporto speciale emesso dal Regno Unito per gli hongkongesi. Quindi sostanzialmente, se la legge sulla sicurezza nazionale fosse approvata, quindi la Cina stringesse ancora di più gli artigli su Hong Kong, Pan potrebbe fare una scelta molto comoda, potrebbe semplicemente andarsene nel Regno Unito. Sentite cosa dice. Beh, si tratta di una situazione molto conflittuale per me. Da un lato posso avere un passaporto BNO, ossia British National Overseas, e Boris Johnson ha annunciato che Londra concederà un visto per risiedere e cercare lavoro nel Regno Unito. Un percorso che potrebbe portare alla cittadinanza britannica, ma mi sento come se abbandonassi i miei amici e molte persone più giovani di me, gente che sta protestando in prima linea e che sta facendo tutto quello che può per lottare per la democrazia e per i propri valori. Non è giusto che solo per essere nati un po' prima di loro, io e quelli della mia generazione abbiamo la possibilità di fuggire, lasciare Hong Kong senza più guardarci indietro mentre loro rimangono qui. Se lo facessi, penso che questa decisione mi lascerebbe delle ferite e dei rimorsi, perché non voglio salvare solo me stesso. Vorrei che ci salvassimo tutti insieme. Lo so che è praticamente impossibile trasportare 7 milioni di persone via da Hong Kong, e rifletto anche su quante delle persone che hanno diritto a un BNO stiano davvero sostenendo il nostro movimento. Molte delle generazioni più giovani a Hong Kong non hanno una vera fonte di entrate, non sono indipendenti, non sono ancora laureati e allo stesso tempo sono fortemente sottoposti a quello che decide il governo. Manca un minuto, posso rispondere a un paio di messaggi che sono arrivati al 349-238-6666. A qualcuno non gliene frega niente di Hong Kong e fa male, perché ci sono anche grossissime aziende italiane quotate alla borsa di Hong Kong perché è un ponte verso il mainland, e ci sono tantissimi italiani e aziende italiane che lavorano a Hong Kong, quindi fa male, gentile ascoltatore, a fregarsene. Poi c'è qualcun altro che scrive sull'argomento Trump: io, uomo di destra al 68, sono sconcertato dal sostegno dato dai vostri ascoltatori a quel paradigma della rozza ignoranza che è l'attuale presidente dividete Trump. Qualcuno scrive: Trump applica il divide et impera che gli antichi romani applicavano ai paesi da sottomettere, così Anna. Quindi ho come l'impressione che, gioco forza, torneremo ancora a parlare delle diatribe del presidente statunitense. Detto ciò, e ringraziamenti per essere stati all'ascolto. A tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, l'appuntamento è domani ore 16. Una buona serata da Gianpaolo Musumeci.